Ciao Lara, mi chiamo Giulio, sono uno studente di filosofia all'Università di Berkeley in California. Ti mando questo messaggio perché posso immaginare che il Parlamento europeo possa rivelarsi un ambiente teso. Quindi se volessi organizzare una fuga, io sarei felice di ospitarti qui da me in California. È un posto molto bello, c'è sempre il sole, le persone sono simpatiche. E dato il fuso orario si può addirittura ascoltare la zanzara in diretta la mattina quando uno si sveglia, il che per me non apprezzo. Quindi scrivimi, ti aspetto. Un saluto, Giulio.